Nella casa di Valentina cadeva l'oscurità. Sul terrazzo, invece, la notte restava sollevata come per un respiro. Le forme delle ragazze apparivano brune, fredde contro la grigio-azzurra trasparenza del cielo. Sedevano sul parapetto e guardavano sbocciare le stelle. Anna diceva: "Non si vede mai una stella nascere, anche se rimani ore e ore a fissare quel pezzo di cielo, te la trovi accesa senza averla vista spuntare. È un miracolo. O forse aspetta l'attimo nel quale tu sbatti gli occhi per uscir fuori. A te piace assai la campagna, vero Anna? Mi piace il tono, sì, l'odore della vita di campagna. Qui ogni cosa si assapora. Chi guarda mai le stelle in città non ci si accorge neppure che esiste il cielo. Ma ci sono tante altre cose in città. Quali cose? Nessuna che abbia per me valore o importanza. Qui hanno importanza gli elementi essenziali della vita, il sole, il vento, la stagione. Non è più importante questo che l'orario di apertura del cinematografo. È bello sentir dire ai coloni con timore che alle 12 il vento calerà e verrà a piovere. Quando è sereno s'alzano e vanno al lavoro cantando. Sempre si parla di queste cose perché da queste viene la vita, il benessere. Sai cosa mi piace ascoltare alla radio? Quando trasmettono i dati meteorologici per i bastimenti in navigazione. Una voce calda, lenta, che, si sa, li raggiungerà nella loro solitudine marina. Le parole che usano sono piene di fantasia, confrontale con quelle che adoperano per dare i prezzi della borsa, nervose, irte di numeri, le altre piene di sonori aggettivi. E così è per la vita di città e quella di campagna. E i tuoi parlano ancora di trasferirsi? Non lo so, sì, credo, dietro le mie spalle. E il parlarne nascostamente prova che sanno di aver torto. Io penso, continuò seria, che sia un errore voler uscire dalla propria classe sociale per entrare a forza in un'altra. Mi sembra che molti inconvenienti della vita di oggi nascano appunto dal fatto che tutti vogliono condurre una vita superiore al proprio livello e alle proprie possibilità. Non credi? Intanto poi, fatalmente, capita un discendente che ha nel sangue le primitive aspirazioni dei suoi avi, come me. Io rimango qui, ho deciso. Ho 22 anni, chi potrebbe obbligarmi a partire? E la laurea? La prenderò, parto con te e poi ritorno, a meno che non dovessi fare un fiasco, e aggiunse, un fiasco come Xenia. Chissà che fine avrà fatto Xenia. Ah, nessuno mi toglie dalla testa che è morta. Già, temevamo, ma non è stato così certo. Quando uno muore si sa, certe cose si sanno. E poi lei non era di quelle che si ammazzano, era in gamba. Ancora non capisco perché non sia riuscita. Aveva un'intelligenza avida. È un'intelligenza non adatta per i nostri studi. Può darsi. Di nuovo cade il silenzio tra loro. Anna ascoltava il suono dell'ultima campana raggiungerla vibrando sulla pianura. È quando le notti sono così belle che io temo di prendere una malattia e morire e non vedere più nulla. Valentina l'interruppe. Shh, taci un minuto. E tese l'orecchio verso la casa. Nulla, nulla, continua, continua. Ma di chi hai paura? Paura? No, veramente. È per i fratelli. Una volta che udì un calessino arrestarsi davanti alla porta, si alzò, prese l'amica pel braccio e le disse: "Senti, adesso è meglio che tu vada via, scusa, sai, scusa." Uscendo, Anna si incontrò con due uomini nell'atrio. Due uomini di una certa età, uno più basso, zoppo, e l'altro alto, tarchiato. Erano i famosi fratelli. Non incutevano paura, ma il più giovane, lo zoppo, aveva un'aria di beffa maligna. Il giorno dopo, Valentina andò a trovare l'amica e le spiegò: "Sono i fratelli del babbo. Da quando il babbo è morto ci mantengono per pietà, pagano tutto loro, anche i miei studi, il collegio. Mica cattivi in fondo, sai? Altri non farebbero neppure questo." "E allora?" "Allora, ecco, ti rinfacciano ogni momento quel che hanno fatto, quello che fanno, ogni boccone di pane che mangi. Hai visto la mamma? Sei invecchiata in pochi anni perché quasi non ha il coraggio di toccare più cibo. Io sono giovane e passo sopra tante cose, ma per lei. E in fondo i terreni erano di tutti e tre i fratelli. La parte del povero babbo dovrebbe essere la nostra adesso, non è vero? Ma loro dicono il nostro terreno, il nostro denaro. Non volevo che mi trovassero a parlare con te, inoperosa. Quando insegnerò e manderò i danari a mia madre, allora sarà un'altra cosa. Io però non sono nata per lavorare. Mi piacerebbe sposarmi in città. Ma nessuno mi vorrà. Ci penso notte e giorno. Aveva gli occhi bagnati per questa sua antica e costante pena. Perché dici questo? Non hai ancora 20 anni. Non è l'età che conta. Io sono povera e avrò la mamma a mio carico. Non posso lasciarla e chi mi vorrà così? Singhiozzava e le parole le sboccavano a fiotti umide. Oh, se sapessi, se sapessi, le amiche d'infanzia si sposano, altre sono fidanzate, vengono a trovarti, te lo dicono con aria di vittoria e intanto ti fissano sorridendo come per dirti tu ancora a casa, eh? E quando non si tratta di loro, vengono a dirti di amiche comuni, per ferirti ugualmente. Sai, si sposa la tale, un matrimonione. Magari neppure è vero. E io sempre lì, sempre lì. Sapessi che vita è la mia. La sera i fratelli fumano sigari, ammorbano l'aria. Noi sfaccendiamo attorno alla tavola, servendoli. Poi sciacquiamo quegli orribili piatti grassi. Prepariamo i letti. E al mattino, quando s'alzano, lasciano nella camera la frore del vino bevuto la sera all'osteria. Hai saputo che anche Linda si sposa? Già, ma non l'invidio. Prende il figlio dei Toma, è un mezzo scemo. E comunque si sposa. Ah, sì, comunque. Tutte così, Anna pensava, affamate. Si sposano come capita e poi guaiscono sotto le botte. L'essenziale è di poter dire alle amiche mi sposo e vedere le altre crepare di rabbia. Anche in collegio, seguitava Valentina, molte hanno trovato. Molte? Non mi sembra. Come no? Vinca, per esempio, ed Emanuela. Emanuela l'ha conosciuto con noi all'università. Apposta aveva preso gusto alle lezioni. Beh, è molto bella Emanuela. Sì, e soprattutto è molto ricca. E Barbara di scienze politiche. Dopo la laurea sposa un collega che ha conosciuto in facoltà. È vero. Disse Anna, non ci pensavo, però siamo quasi 100 al Grimaldi. Ma non potevo essere io fra queste. Don Antonia s'era affacciata alla finestra e cantava, una vocetta esile e stonata che dava fastidio a sentirla. È pazza tua nonna, vero? No, no, perché dici questo? I pazzi mi spaventano. È vecchia, molto vecchia, è un po' fissata. Quando fa così, impressiona. La vecchia, scorgendo le ragazze, s'era taciuta e faceva cenno con la mano che accorressero. Poi chiamò con voce misteriosa: Anna, Anna! Quando furono sotto la finestra, domandò: Chi è con te? È Valentina. Ah, già, la figlia della liberata. Brava ragazza! E cominciò a piagnucolare infantilmente, mettendosi i pugni sugli occhi come una bambina. Nonna, che c'è? M'hanno chiusa dentro. Sperano di trovarmi morta. Ma io canto per far sentire loro che resisto. Vieni ad aprirmi, figlia, per carità. Chi va chiusa dentro? E che ne so, tua madre, certo, tua madre sarà stata. Vieni, Anna, benedetta figlia, vieni a liberare questa povera vecchia. Hanno fatto così perché c'è gente e non vogliono farmi vedere il vino che si sciupa. Riprendeva a cantare e le ragazze, per non più udirla, si decisero a salire. Traversando l'atrio, videro che veramente c'era gente nella sala da pranzo. Un giovanotto vestito di lutto parlava con Don Alfonso. Questi, scorgendole, le invitò ad entrare. Valentina si rassettò con le mani i capelli e sussurrò all'amica: E a Ponte! E Mario a Ponte! L'ospite si alzò in piedi e salutò le ragazze. La madre di Anna presentò Valentina con un sorriso di condiscendenza per far rilevare che la ragazza era di condizione inferiore alla loro. Don Alfonso parlava vivacemente. Che non si ricordavano più di Mario? Avevano giocato insieme da bambini, con Anna almeno. Dio, quante corse avevano fatto. Anna ammise, sì, mi pare di ricordare, un giorno che s'andò a mangiare l'anguria da un mezzadro e io caddi e mi feci male al ginocchio, sì, ricordo come un sogno. Io, Valentina fece decisa, io ricordo perfettamente. Mario parlava poco, reso triste da quel lutto così grave. Negli intervalli di silenzio s'udiva di nuovo il canto della vecchia alla finestra. Allora Anna si scusò. Io salgo dalla nonna un momento. Valentina non si mosse per seguirla. Restò ad ascoltare il giovane. Egli aveva dovuto abbandonare gli studi, era stato all'estero, veniva a stabilirsi qui per rimettere in efficienza il podere, la casa. Tutto andava alla malora, neppure più i vetri alle finestre. I contadini si sono approfittati del terreno, il castaldo ha rubato finché ha potuto, e adesso non si sa più neanche dove sia, e nei campi crescono erbacce. Ho visto stamani tanta ruggine sull'aratro. La nonna non era chiusa a chiave in camera. Ah, mi sono sbagliata, diceva, ma tante volte lo fanno. E seguitava a compatirsi. Spesso parlava di sé in terza persona. Ah, povera donna Antonia, rinchiusa come un maiale, ti sfoghi a cantare, eh? Tanto poi un giorno finalmente si crepa. Anna si propose di superare la repulsione che provava per le mani della vecchia, la quale le adoperava invece del fazzoletto, di sopportare l'odore sgradevole della camera e rimanere più a lungo accanto a lei. È la nonna, si diceva quasi per convincersene. A una certa età, pensava, i vecchi smettono anche di essere cari stretti parenti che sono stati e divengono soltanto dei vecchi. Le dispiaceva di rinunciare alle sue ore di libertà dopo lo studio, soprattutto alla sua solitudine. Infatti il giorno seguente si recò con la nonna in giro per i campi a vedere le case dei coloni, bianche di calce e affocate dal sole. I ragazzi andavano attorno completamente nudi, le teste rasate di fresco, grigie come topi. Se Anna li interrogava, neppure rispondevano. La fissavano a bocca aperta e poi ridevano dietro le sue spalle. Avevano invece domestichezza con la vecchia, che li chiamava tutti per nome e qualche volta li sculacciava. Masticavano le foglie, le bacche, facevano pupazzi e palline con lo sterco dei muli. Le femmine presto divenivano utili, a 5-6 anni portavano le brocche d'acqua in testa, dignitosamente, e spazzavano l'aia. Anna era accaldata, sudata, aveva bevuto acqua ad ogni casolare, la nonna invece camminava svelta, stringendosi sotto il mento il fazzoletto nero. Tua madre cerca di avvelenarmi, diceva, ma io me ne accorgo e non tocco il cibo che mi manda. Ieri era nelle polpette, come si fa per i cani. E sto preparando un tiro. Sai che vogliono la mia firma per un affare di tuo padre a Milano? Sì, io dico docile, sì che la do la firma. E poi all'ultimo niente. E rideva, mostrando i denti gialli. E intanto gli sto sollevando contro tutti i contadini. Un giorno verranno sotto il balcone con le falci e con le roncole. Vogliamo la padrona vecchia! Urleranno. E quel giorno tua madre si farà prendere da uno svenimento dei soliti. Lei pensa, lo so, non muore mai quella vecchiaccia. Non si interrompeva di parlare neppure vedendo Mario Ponte sulla soglia della casa. Seguitava a dire, anzi, oggi chissà dove me la metterà la polverina. Mario adesso pranzava spesso in casa dei Bortone. Ad Anna riusciva simpatico per quel suo modo di parlare pacato e riflessivo, per l'amore che portava alla sua terra. Ogni tanto egli ricordava gli studi con rammarico. Don Alfonso gli consigliava: allora vendila la terra, così potrai tornare in città. No, egli rispondeva, non si vende la terra, porta male. Ah, frottole, frottole che raccontavano i tempi andati, vendila se ti piace. Ecco, forse non mi piace. Anna ebbe un tuffo di gioia sentendolo rispondere così. Avrebbe voluto approvarlo ad alta voce, ma le sembrò eccessivo. Alzò verso di lui lo sguardo, incontrò i suoi occhi e allora, dopo un attimo di impaccio, gli sorrise. Papà seguitava a parlare. Diceva che la terra rende poco, una miseria. Piove, il raccolto va alla malora, è troppo caldo, è troppo freddo, c'è sempre qualcosa che non va. Già, già, Mario annuiva, un lavoro caparbio, un lavoro di tenacia. Mi attrae proprio per questa lotta. E fece con le mani massicce il gesto di voler piegare qualcosa, un ferro. Salì dalla strada maestra al suono di un organetto. Lo strumento aveva due voci, una più bassa, cupa, quasi uscisse da uno strumento a fiato, e l'altra tutta scintillante, fatta di note argentine, che svariavano sul canto, rotolandosi l'una dietro l'altra. Era una voce estiva, come l'ansima delle cicale. Chi pensa agli organetti d'inverno? Quel suono sollevò la bassa afa del meriggio, sventagliò per l'aria un po' di frescura e Anna soffocò l'impulso di alzarsi e correre alla finestra. Donna Matilde esclamò soddisfatta: Che distrazione la musica! Sarà altra cosa quando avremo la radio. Dall'organetto una scala di note si gettava a capofitto come acqua che scaturisca a rimbalzi di roccia in roccia. No, Anna, insisté la madre. Anna non rispose. Giungevano lettere di Vinca, lettere di Emanuela. A Valentina e ad Anna queste lettere parevano venire da un altro mondo. Scrisse anche Augusta, rimasta a Roma in collegio. Parlava di Suor Lorenza, di Suor Luisa e di come erano personaggi di favole. Davvero, le due ragazze si chiedevano, davvero abbiamo vissuto con loro mesi e mesi? Svanivano le loro figure nella lontananza, nel paesello arso dal sole, dove nell'ombra ferma dei cortili ragazzini seminudi si rivoltolavano nella sporcizia. Come immaginare le fredde pareti del collegio, tra le quali stagnava l'odore di monaca? Di sera, qui, nel silenzio bianco di luna, sotto qualche finestra, i giovani cantavano. Valentina ascoltava le voci passare sotto la sua finestra, allontanarsi e perdersi. Era sconvolta da quelle lettere delle amiche che parlavano sempre d'amore. Di notte mormorava Andrea, Luis, per gustare il suono di quei nomi come esse lo gustavano. Piano, perché la madre, che dormiva accanto a lei, non l'udisse. Vinca non parlava che di Luis. Lettere sconclusionate, in cattivo italiano. Scriveva Luis, andava in chiesa a pregare per Luis, aspettava Luis. Luis era un eroe. Le lettere di lei scottavano le mani. Descriveva la sua vita in casa di Donna Inés. Tre donne in attesa, boccheggianti di caldo. Pilar si consuma, poverina. Io ho dato lezioni di spagnolo. Qualcuna, ma ieri quasi rompo la borsetta, in testa una ragazzina la quale diceva che gli spagnoli sono tutti buffoni buoni per la corrida. Me ne sono andata e non voglio il danaro. Sono stata al collegio, ho trovato Augusta a scrivere. C'è smagrita e pallida. Suor Lorenza m'ha abbracciata, m'ha stretta, m'ha domandato se ritornavo lì a ottobre. Che sono matta? Le ho risposto. E allora lei mi ha chiesto così affettuosamente: perché ti sei trovata male? Che io subito mi sono messa a piangere pensando a Luis. Luis mi ha scritto una lettera appoggiato a un tamburo. Scrive poco. Ebbene, le lettere di Pepe a Pilar sono molto più lunghe, ma Pepe non è Luis. Le lettere di Emanuele erano più calme. Era andata a Firenze prima e poi era partita per un viaggetto in macchina con papà e mamma. Mandava cartoline sovente, da ovunque, forse in ogni paesello dove si fermavano, anche solamente per fare benzina. Emanuela scendeva, andava dal tabaccaio, spediva la cartolina. Se dimentica di mandarmene una, forse rimane tutto il giorno con l'amaro in bocca, diceva Anna con un sorrisetto. Perché riderne? Rimbeccava Valentina. È molto affettuosa, sempre si ricorda di noi. Tu credi che le mandi per noi? Solamente più tardi si comincia a viaggiare per se stessi. In principio si viaggia soltanto per gli altri. Lei ci scrive così spesso perché a noi, soffocate dall'afa in questo paese, nasca l'invidia di quei freschi colli o delle Dolomiti. Ma io preferisco essere qui. Vorresti essere al suo posto? Io sì. Ormai Valentina e la madre mangiavano addirittura in cucina. I fratelli neppure le chiamavano a cena. Si mettevano a tavola, sudati, bevevano. Davano le ossa al cane, un mezzo bracco pieno di pulci. Se sorprendevano la nipote senza far nulla, non la rimproveravano, ma le dicevano: perché non ti fai mantenere dalla Bortone, che t'è tanto amica? E poi prendevano a parlare volgarmente di Anna e delle sue forme prosperose. Allo zoppo, mentre parlavano di ciò, s'accendevano gli occhi. Beveva, poi si passava la lingua sulle labbra e la schioccava. Vieni qui, Valentina, dici un po'. L'hai veduta in camicia al collegio? La ragazza si mordeva le mani per la rabbia e la madre la calmava. Buona, buona, che vuoi fare? È questione di poco. Quando avrai preso la laurea. E tutto finiva con questa frase. Era come il miraggio della Mecca. E una sera Valentina scoppiò a piangere. Mamma, che cosa sperate? 2 anni ci vogliono ancora. Poi avrò una supplenza. Lavora, correggi i compiti, lavora, sempre lavora. È questo che mi prospettate come avvenire. E andò a rifugiarsi sul terrazzo, sbattendo forte la vetrata. Piangeva, un pianto rabbioso, irrefrenabile. Sta buona, la laurea. Vedeva già cosa sarebbe stato dopo la laurea. Si sentiva fin da ora spossata per tutte le giornate nelle quali avrebbe dovuto lavorare, anni e mesi gettati nella voragine comune. impiegata forse a patire per un lavoro non proprio che non fa strada al proprio nome, un lavoro oscuro, una fatica che nessuno conosce. Navigare senza scorgere mai il faro del porto. E tutto questo era lì, davanti a lei. Un vuoto nero, come lo strapiombo che s'apriva sotto il terrazzino nella fosca vallata. Il domani giunse ancora una lettera di Manuela. Diceva: Andrea mi scrive sempre, è tanto carino. Metteva questa tra due frasi qualunque: Il tempo è bello, domani saremo sul lago di Braies. Spesso Valentina andava a letto presto, appena le rondini avevano finito di girare attorno al campanile della chiesa vicina. Volavano stridendo e calavano basso. Certe volte sembrava dovessero sbattere alle imposte. Erano notti formicolanti di stelle, tacevano le rondini e incominciava il cricri dei grilli. Qualche rana urlava nel pantano. Valentina non riusciva ad addormentarsi. Accanto a lei la madre, stanca, dormiva. Un grosso respiro le sfuggiva di tra le labbra semiaperte. Valentina, desta, immobile, aspettava che dall'ombra venisse a lei il sogno consueto, la consueta immagine. E invece il chiarore che passava dalla finestra prendeva forme decise, ora Andrea, ora Luis. Valentina immaginava di rubarli alle amiche. Andrea muoveva verso di lei e stava seduta tra le compagne, nel cortile del collegio, o coricata con loro in un immenso dormitorio, e la sceglieva, tu Valentina. E allacciati si allontanavano e sentiva il braccio di lui intorno alla vita. Bruciava, la carne doleva. Finché le immagini maschili dileguavano e invece dal buio nascevano i volti delle amiche, si tendevano verso di lei, soltanto i volti, come maschere. S'avvicinavano, le soffiavano in faccia, sono fidanzata. Lei stava china al tavolo, correggendo i compiti dei ragazzi, sepolta tra una montagna di quaderni neri e lucidi come scarafaggi, e tutte queste sommesse voci formavano un brusio sibilante, un ululo di vento. Sono fidanzata, sono fidanzata! Dopo s'udiva un ridere, dapprima represso e poi scrosciante. Ridevano. E lei tentava di non alzare gli occhi dal lavoro, ma infine quel riso l'ossessionava. Doveva tapparsi gli orecchi, non resisteva più. Basta, basta, per pietà! E si svegliava, affannata. Dilatava le pupille nella tenebra della camera, silenziosa e tranquilla. Adesso un'altra immagine spesso la tormentava. Mario. Ci pensava, notte e giorno. Andava da Anna sperando di vederlo. Insisteva perché Anna smettesse di studiare e andiamo a spasso. La prendeva sotto braccio e, come per caso, la spingeva verso il podere degli Aponte. Mario era sempre lì attorno, con gli operai che riattava la casa. Si fermava volentieri a parlare con le ragazze, spesso le riaccompagnava. A sera Valentina si rimproverava. Ho parlato troppo oggi. Anna forse le interessava di più con il suo sorriso di Gioconda. Sudavo, il vestito era macchiato sotto le ascelle e, smuovendomi, sentivo un forte odore. L'avrà sentito anche lui? Mario sembrava non sentire nulla, s'occupava soltanto della casa e della terra. Passava le mani sui muri di casa come per essere sicuro che non cadessero. Le famiglie dei nuovi coloni erano entrate nei casolari dipinti di fresco, gente del Veneto. Erano venuti dalla stazione con un carro. I ragazzini sopra, in piedi, traballando, che scesi s'erano presi per mano, stretti alla madre, attoniti, spaziando lo sguardo per la nuova terra. Correvano per i campi. Avevano fatto amicizia con i figli dei coloni dei Bortoni. Senza parlare, perché gli uni non capivano il dialetto degli altri, sedevano insieme passandosi le pietre e i pugni di terra. Valentina credeva che Mario fosse innamorato di lei. Spesso, quando sedeva sul terrazzo a rammendare, si volgeva di scatto e le pareva di vederlo entrare. Eccomi, le diceva. Sono venuto. O entrava di notte nella sua stanza e si chinava sul suo letto per baciarla. Come mi bacerà? E la bocca di lei si inumidiva per l'attesa. E un gran sudore la bagnava e il respiro le si faceva affrettato, ma cercava di liberarsi da questa immagine. Ricercava attorno a lei quella che ogni notte la raggiungeva. E così le ore passavano e i rintocchi della campana a tratti scuotevano la notte. Certe volte, vedendo l'alba nascere infreddolita dietro i vetri, Valentina si proponeva: adesso dormo. Poi, ricordando i sogni ai quali volontariamente s'era abbandonata, si spauriva del peccato commesso. Dio, Dio, perdonami. Ma tutto era così facile e molle in quelle notti d'estate.